Il punto di Stefano Folli. Enrico Letta continua a ripetere che la ripresa è cominciata. Può darsi che abbia sul piano tecnico ragione, tuttavia ha torto su due punti essenziali. Primo, questa ripresa si annuncia debolissima e deriva per noi italiani da fattori esterni, non è certo il risultato di una grande svolta interna. Secondo, senza profonde riforme che continuano a mancare nell'agenda governativa, l'Italia sarà esposta a maggiori rischi di involuzione non appena il vento cambierà di nuovo. È strano che il Premier non colga la contraddizione, soprattutto adesso che l'intesa sulla riforma elettorale ha allungato la vita del governo, almeno sulla carta. Avere un anno a disposizione e una maggioranza rincuorata dovrebbe essere lo stimolo migliore a voltare pagina. Che ne è delle promesse di qualche settimana fa, quando si parlava di un nuovo progetto per il 2014, iniziative che avrebbero stupito per il loro coraggio? Anche Romano Prodi ha detto al governo che deve cambiare marcia prima che sia troppo tardi. Vivacchiare non conviene a nessuno e di solito non serve ad allungare la vita.